Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti, benvenuti da Deborah Rosciani all'ultima puntata di Salvadanaio della settimana. Allora, ieri al termine della nostra trasmissione, come ricorderete, vi avevamo preannunciato che avremmo parlato di un focolaio di crisi europeo che da qualche settimana sta destando una certa preoccupazione fra gli investitori, cioè la situazione della Grecia che per qualcuno sarebbe sull'orlo della bancarotta. Poi abbiamo dovuto virare tema alla luce di quello che stava accadendo ieri pomeriggio, perché di focolaio se ne è aperto un altro e ieri questa scoperta ha mandato in tilt le borse di tutto il mondo, con l'unica eccezione americana, perché era chiusa per il ringraziamento, e probabilmente oggi si vedranno invece le conseguenze sul mercato americano. Quasi 160 miliardi di euro di capitalizzazione bruciate in una giornata nera, il calo giornaliero più profondo da aprile. Cosa è successo? Ne abbiamo parlato da tutta la mattinata in tutti i nostri radiogiornali. Dubai World, un colosso immobiliare controllato dallo Stato, gravato da debiti per 59 miliardi di dollari, di cui avrebbe chiesto una moratoria nei confronti di tutte le banche finanziarie e creditrici. Ecco, questo è successo. Praticamente si è preannunciata un'altra possibile bancarotta, probabilmente verrà scongiurata, forse la moratoria verrà accordata a questo colosso e potrebbe anche essere uno stato vicino, Abu Dhabi, ad intervenire appunto per salvare dal tracollo questa holding. Ma di fatto l'annuncio della richiesta di rinegoziare e ristrutturare il debito ieri ha scosso i mercati in maniera piuttosto importante. Anche oggi l'incertezza sta pervadendo le borse, partite piuttosto male ieri, i cali sono stati di 3 punti, 3 punti e mezzo, partite di nuovo piuttosto male stamattina con cali vicino a 1,5 punti percentuale, si sono poi tutte quante risollevate, addirittura Parigi e Francoforte hanno fatto una puntata in territorio positivo, adesso si sta riscendendo di nuovo. Comunque, insomma, il danno oggi sembra essere piuttosto limitato e a quanto pare questa preoccupazione legata alle vicende di Dubai si tenta di lasciarle da parte. Ma il tema è, siamo di nuovo di fronte ad un rischio che potrebbe essere sistemico. Quali potrebbero essere le conseguenze di questo default, che, lo ribadisco, sembra comunque scongiurato, tutti gli operatori sembrano intenzionati a non farlo concretizzare. Di questo parleremo quest'oggi, ma la Grecia l'avevamo preannunciata, molti ascoltatori aspettavano anche che ne parlassimo, e naturalmente analizzeremo anche questa situazione perché a quanto pare vi interessa parecchio. Potete intervenire all'800 24 00 24 o per le vostre telefonate, naturalmente ci potete anche scrivere al 349-238-6666. I nostri interlocutori di questa mattina: Claudia Segre, direttore lettera Assium Forex, che è l'associazione fra gli operatori dei mercati finanziari ed è, per quello che mi è dato conoscere, una delle maggiori esperte di mercati emergenti, reddito fisso, mercati obbligazionari. Segre, buongiorno, benvenuta a Salva Danaio, bentornata. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Luca Pierazzi, responsabile Italia di Ace Capital, una società di gestione indipendente dedicata agli investimenti nei mercati finanziari dell'est europeo, lo abbiamo così interpellato anche per darci la sua visione sulla questione greca. Dottor Pierazzi, bentornato anche lei. Buongiorno. E non ci crederete mai, ma questa settimana per Plus 24 sulla Grecia sta preparando, anzi ha terminato, ha concluso, ormai consegnato al giornale un pezzo, il nostro Maximilian Cellino, bentornato. Buongiorno. Anche se la pagina di Plus di domani è dedicata ad un altro argomento, lo scudo fiscale, se non sbaglio, no? La copertina sì, però ci sarà anche una pagina sulla Grecia e soprattutto sui riflessi che questo potrebbe avere anche sui titoli di Stato italiano, il BTP, mm-hmm, che sicuramente molti italiani hanno in tasca. Benissimo, allora Segre, però cominciamo con la questione di Dubai. Dubai World, la potente holding pubblica che controlla anche colossi della finanza, della logistica, dell'energia, zavorrata da 59 miliardi di dollari di passività, si parla del 70% dell'intero debito statale, ha chiesto ai creditori una moratoria di 6 mesi sul debito, sta cercando di rinegoziare le sue posizioni. Mi chiedo, vista la dirompenza con cui questa notizia ieri si è abbattuta sul mercato, era una notizia che davvero vi ha sorpreso così tanto, o comunque di questa difficoltà finanziaria di questo colosso avevate già sentore? Ma sì, il tavolo è stato aperto oltre 2 mesi fa con i creditori e quindi diciamo che scontavamo un accordo molto tranquillo e senza nessuna ripercussione, anche perché si trattava di mettere appunto intorno a questo tavolo i relativi creditori e far passare questa moratoria di 6 mesi. No, anche perché voglio precisare, si tratta di una difficoltà che arriva dal crollo del mercato immobiliare, che non è poi una notizia che ci deve sorprendere più di tanto, visto che l'origine della crisi dei mutui subprime parte proprio da lì. Assolutamente, anche perché tutti sapevano benissimo che Dubai, dopo oltre 5 anni di boom immobiliare, stava soffrendo tantissimo, tant'è vero che avevamo avuto dei grossi problemi e sui livelli di CDR si sono tornati a toccare i picchi proprio all'inizio dell'anno. Quindi nulla che poteva stupire il mercato, se non fosse che i messaggi non troppo trasparenti, le incertezze, i dubbi da parte governativa nel confermare l'impegno e quindi la garanzia sovrana ha creato del panico, soprattutto perché ricordiamo, stiamo parlando poi il tutto è relativo a una scadenza di dicembre di un titolo su Cook che è al centro di tutto un dibattito sulla finanza islamica e su un giro di commercio internazionale importantissimo tra Oriente e Occidente che si sta sviluppando e che era da tutti gli investitori condiviso come uno dei migliori segmenti o quelli su cui puntare nel 2010. Quindi proprio General Electric la scorsa settimana ha emesso un'emissione su Cook, quindi se viene meno quello che è l'impianto, il consenso sulla struttura islamica, è chiaro che evidentemente vanno via gli investitori, vengono via i capitali e quindi ci si troverebbe di fronte a dei problemi che vanno ben al di là di quella che è l'esposizione di Dubai World. Secondo lei i creditori saranno disposti a questa rinegoziazione, tutto, come dire, pur di scongiurare un'altra crisi Lehman Brothers come quella che si è verificata appunto un anno fa? E secondo lei, qualora veramente fosse lasciato al suo destino Dubai World, che cosa si potrebbe verificare sul mercato? Ma in questo momento stiamo giocando una partita politica. Stamattina da Dubai, non abbiamo i prezzi in diretta, stanno arrivando acquisti su Qatar e su Abu Dhabi, segno che si vuole far fare decoupling alla situazione di Dubai. Cosa quindi vuol dire? Ce lo può tradurre per i nostri ascoltatori? Vuol dire isolare la questione Dubai dal resto degli Emirati, che hanno tra bilancia commerciale, surplus di parte corrente, riserve oltre 480 miliardi di dollari. Quindi si vuole isolare il caso Dubai per evitare ripercussioni sul mercato e sugli importanti impegni che hanno i paesi del Golfo nei confronti del resto del mondo e anche nei confronti delle banche europee. Abu Dhabi sta giocando la sua partita per rimettere a giudizio Dubai e quindi limitare le sue ambizioni da Wonderland immobiliare. Questo vorrà dire che se avremo questa soluzione si permetterà di poter riprezzare i titoli e quindi riportare un po' di calma su tutto il segmento. Wonderland immobiliare, l'ennesima definizione tra le tante che ho trovato questa mattina per descrivere quell'area, l'Eldorado della finanza, la Wall Street, la candidata a diventare la Wall Street del Medio Oriente e tante altre ancora. Comunque un'area sulla cui ricchezza poggiavano progetti immobiliari per 350 miliardi di dollari e che con la crisi del settore immobiliare ovviamente rischia di perdere tutta questa reputazione anche legata a questo settore. Un'area che comunque non ha petrolio, a differenza di tutto il resto invece di quella zona. Luca Pierazzi, allora abbiamo interpellato anche lei che, come mi ha detto ieri al telefono, non ho giurisdizione su Abu Dhabi e su quell'area, ha però una giurisdizione molto attenta sull'area dell'Est Europa. La Grecia ieri, di cui volevamo parlare, ha pagato questa giornata con un calo forforse più forte di tutta Europa, meno 6% per quello che riguarda il listino. In ogni caso, che cosa ci suggerisce questa situazione di Abu Dhabi? Il tema è: c'è ancora qualche focolaio molto preoccupante? Noi abbiamo parlato della Grecia, Abu Dhabi, che cos'altro ancora ci dobbiamo aspettare da questa crisi? Ma sono storie che si ripetono, hanno più o meno tutte le stesse caratteristiche, investimenti che eccedono la ragionevolezza, situazioni di scarsa trasparenza, situazioni opache nelle quali non si riesce a guardare bene dentro, a vedere bene dentro. Ricordo che solo pochi giorni fa l'emiro del Dubai ha rifiutato di rispondere a domande di giornalisti e analisti sulla situazione del debito, e quindi si ripetono cose che abbiamo già visto e che rivedremo, perché aree di scarsa trasparenza ce ne sono tante. Molti si chiedono, per esempio, io sono tra questi, che cosa ci si possa aspettare dal sistema bancario cinese, un'altra situazione nella quale non si riesce a vedere dentro con trasparenza. Sappiamo benissimo che solo i sistemi di contabilità delle banche cinesi sono ancora arretratissimi. Certo, in un sistema finanziario ormai così globalizzato certe questioni non sono più sostenibili, perché poi succedono queste cose qua. E e sono cose da chiamare col loro nome. Questo è il default di uno Stato, perché quando la società che gestisce tutto lo sviluppo che avviene in questo paese rappresenta il 70-80% del debito dello Stato e ferma i rimborsi, cioè non può più pagare, questo si chiama evento di default, e se rappresenta il 70% dello Stato è il default dello Stato. Certo, tant'è vero che qualcuno non ha tardato a paragonare questo default a quello dell'Argentina del 2001, magari le proporzioni sono diverse, ma sicuramente il fatto che sia uno Stato sovrano a potenzialmente fallire sicuramente ci rimanda alla memoria anche quella triste circostanza, solo che in quel caso ci finirono di mezzo tanti italiani, speriamo che qua almeno non ci troviamo nelle tasche anche prodotti legati al Dubai. Qua sono forse più le aziende italiane che sono legate allo sviluppo di quel paese piuttosto che i risparmiatori, che non mi risulta abbiano investito in maniera significativa. Anzi, infatti, però insomma neanche di Lehman Brothers pensavamo di avere tra le tasche alcunché, invece poi abbiamo scoperto, però sì, qui è una questione estremamente diversa. Maximiliano, non riesco ancora a farti intervenire sulla Grecia, lo faccio tra pochissimo. Io metto subito a disposizione di tutti gli altri ascoltatori la considerazione di Giovanni da Treviso, che poi sarà la considerazione dalla quale partiremo nella seconda parte di Salvadanaio. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Niente, la mia considerazione è abbastanza semplice. Io credo che, questa è un'opinione personale naturalmente, credo che questa crisi che noi ci siamo praticamente dentro da un anno, è stata in tutti i modi cercata di essere risolta, però a mio avviso fondamentalmente la crisi c'è ancora, non è finita. Mi chiedo se questa ulteriore crisi medio orientale possa essere la conferma appunto che in realtà nella crisi ci siamo ancora bene immersi. Credo appunto che fondamentalmente la crisi che si dà per finita, perché tutti hanno tutta questa gran fretta di far finire, poi fondamentalmente credo ognuno per i propri interessi, ecco, ma credo che forse questa ulteriore crisi medio orientale possa essere un'ulteriore indicazione del fatto che tutto sommato questa crisi che oramai ci attanaglia da un anno forse non è ancora del tutto. Ci attanaglia forse anche da più tempo, Giovanni, da ben prima dell'estate del 2007 peraltro, perché sono ormai oltre 2 anni che siamo nel bel mezzo di questa crisi che da prima finanziaria si è trasformata in crisi dell'economia reale e forse adesso ne pagheremo le conseguenze più amare. Comunque, riflessione intelligente, Giovanni, peraltro fatta anche parzialmente queste prime battute di Salvadanaio. Oggi a Salvadanaio naturalmente non potevamo non dedicarci alla crisi di Dubai World, la potente holding pubblica dell'Emirato Arabo che controlla anche colossi della finanza. Avete presente quella famosa isola artificiale delle Tre Palme? Beh, è stata costruita, anzi in via di costruzione, perché non credo sia ultimata, proprio da questa holding. Di fatto ieri ha chiesto questa holding appunto di partecipazione in una moratoria alle aziende che hanno dei crediti nei suoi confronti di almeno 6 mesi sul suo debito, cercando di rinegoziare le sue posizioni. E questa notizia, che per la verità per gli esperti era nell'aria secondo quello che abbiamo capito, ha provocato una vera e propria giornata di passione per le borse, come non se ne vedevano da marzo-aprile. E allora ci stiamo chiedendo se tutto questo indica qualche preoccupazione che ancora non viene ben a farsi capire. C'è un rischio di crack che riguarda tutta l'area? Insomma, cosa potrebbe accadere? Questa è la domanda che si stanno facendo molti ascoltatori. E in sostanza Giovanni da Treviso, prima della nostra pausa, si chiedeva, il tema è che la crisi non è finita, ed è un po' quello che dicevamo anche all'inizio della trasmissione. Ogni tanto vengono fuori questi focolai e a qualcuno è anche preoccupante. Noi vorremmo parlare anche della Grecia questa mattina. Vorrei chiedere una considerazione ai nostri ospiti su questo. Claudia Segre, Assium Forex, cosa dice? Ha ragione l'ascoltatore? Assolutamente sì, perché se noi sommiamo il problema della Grecia, che sta ringraziando Dubai per distogliere l'attenzione sulle difficoltà che ha evidentemente, perché stiamo parlando di un paese dove il budget deficit è stato modificato in prospettiva dal 6 al 12.7% del PIL, dove la raccolta fiscale è crollata e dove il neo insediato primo ministro ha dovuto impegnarsi velocemente nell'approvare una legge di bilancio che non ha convinto nessuno, e abbiamo i CDS, quindi il livello dei credit default swap che hanno rotto la soglia psicologica dei 200 basis point, quindi una situazione da tenere sotto controllo, ma è la somma della Grecia più Dubai più la Lettonia più i write downs tedeschi che fanno tutta una serie di creano tutta una serie di preoccupazioni sulle prospettive di crescita del 2010. Write downs tedeschi intende svalutazioni? Assolutamente, l'allarme lanciato da BCE proprio qualche giorno fa per altri 90 miliardi di dollari di svalutazioni, nella somma di tutti questi focolai di crisi fanno una grossa preoccupazione del mercato per una crescita sfittica o stagnante per il prossimo anno e non così convincente come vorremmo tutti quanti. E insomma il tema non è finita. Adesso vorrei sentire anche Giacomo da Milano e poi andiamo alla Grecia, sennò Maximilian dice insomma vabbè che vengo spesso a Salvadanaio, però che stamattina non mi fai neanche parlare. Giacomo. Salve, io avevo una domanda esplicita per voi tutti, gli ospiti in particolare. Il probabile default di Dubai World di oggi può quindi generare un abbassamento dei prezzi delle obbligazioni degli stati del Medio Oriente? Lo genererà nei prossimi giorni? E se sì, secondo voi in quali stati esattamente? Ecco, una domanda molto precisa. Qui devo ritornare da Claudia Segre. Intanto non è detto che ci sia il default, perché l'ascoltatore dice un probabile, un presunto. Io credo che si potrà andare al salvataggio della holding. Segre, qual è la percezione? Sì, infatti, diciamo che il pagamento del bond è al 14 dicembre, quindi sì. È troppo presto per parlare di default. Di fatto le perdite ci sono già stati, la Nakheel 09, che è il titolo direttamente coinvolto, ha perso 56 figure, da 111 è andata a 55, Dubai 14 ha perso 29 figure, da 85 a 56, Dubai World 20 figure, da 95 a 75. Cioè, che cosa indica questa perdita? Un crollo dei prezzi? Assolutamente, una vendita massiccia su tutto ciò che è legato al rischio di Dubai. Il rischio che possa coinvolgere tutto questo stati vicini, che invece sono più ricchi, hanno tanto petrolio e potrebbero correre anche in salvataggio di Dubai? Sì, certamente gli altri paesi potrebbero ricorrere in salvataggio, tant'è vero che oggi, come segnalavo, vediamo qualche riacquisto proprio sulla parte sana, quindi su Abu Dhabi e su Qatar. Però qual è il problema? Che tutti questi paesi che stanno investendo in Europa, nelle nostre corporate, sia attraverso i fondi sovrani sia direttamente, potrebbero anche richiamare i loro capitali. Quindi ancora una volta c'è da interrogarsi sugli effetti collaterali a questa crisi. Luca Pierazzi credo fosse perfettamente d'accordo con lei su questo e prima ci ha fatto anche un'analisi piuttosto interessante rispetto a come potrebbe essere effettuato, come dire, il salvataggio di Dubai e come potrebbe essere fatto dalle altre aree di quella zona, in realtà un'area che tenderà forse ad essere isolata, lo dicevamo all'inizio, cosa ben diversa invece rispetto a quello che sarà necessario fare per la Grecia. E così la introduciamo finalmente. La ricetta mi sembra l'inversa, nel senso che gli altri Emirati tenderanno a isolare Dubai per dimostrare di non essere contagiabili, di avere storie diverse, di non essere a rischio nella stessa maniera. Il discorso è completamente diverso per quanto riguarda la Grecia. È chiaro che nella comunità europea c'è tutto l'interesse a difendere la Grecia, nella moneta unica c'è tutto l'interesse a difendere il debito della Grecia, perché altrimenti è l'innesco di un contagio che poi potrebbe attaccare altri paesi e non tanto tardi neanche arrivare in Italia. Maximilian, allora finalmente riesco a sentirti, c'è un ascoltatore che dice con grande chiarezza: ho delle obbligazioni greche, cosa devo fare secondo voi? Quindi scopriamo anche che fra le famiglie di risparmiatori italiani ci sono queste obbligazioni di questa economia che è sempre stata un po' la cenerentola d'Europa, i problemi non mancano da tanto tempo, l'hanno sempre definita l'anello debole dell'Eurozona e nonostante si sia effettivamente qualificati ai mondiali di calcio, nonostante la ricchezza artistica, paesaggistica, turistica, dal punto di vista finanziario, diciamo la condizione è completamente diversa. Sì, ci sono i titoli greci, sono nelle mani anche delle famiglie italiane, perché probabilmente molti le hanno comprate anche negli ultimi tempi, perché sono dei titoli ghiotti, sono quelli che rendono di più all'interno dell'Europa. Come ma succedeva con i bond argentini, ma ovviamente non era hanno, però, anche, hanno anche un certo grado di rischio. All'ascoltatore che ha posto questa domanda bisognerebbe porre un'altra domanda contraria, cioè quando li ha comprati, perché va sottolineato che nonostante queste perdite di questi ultimi giorni, di questi ultimi mesi, qualcuno da inizio novembre ha perso anche il 5%, 5-6%, che non è poco per un titolo obbligazionario. Nonostante appunto queste perdite, almeno a ieri, poi ieri c'è stata una successiva caduta, molti titoli di Stato greci guadagnavano da inizio anno attorno al 6-8% dipende dalle varie scadenze, per cui il risparmiatore che li ha in mano è ancora in attivo, considerato anche le cedole che hanno staccato in questo anno. In questo caso, per essere tranquilli, si può anche tranquillamente vendere e guadagnarci. Se poi vogliamo vedere un pochino al di là dal un pochino nel futuro, la situazione greca non è delle migliori, anche Pierazzi ci potrà aiutare dopo ad analizzarla, ma è da mettere in conto, io parlo dal punto di vista dei titoli obbligazionari, è da mettere in conto un certo una certa turbolenza anche nei prossimi mesi. La Grecia, diceva anche in precedenza Segre, ha grossi problemi con il proprio deficit, ha un problema di credibilità anche delle statistiche stesse, che anche lo stesso Presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet ha più volte sottolineato, nel senso che i dati che ci vengono forniti dalla Grecia non sono poi così sempre affidabili, e hanno un problema le banche greche, che si rifinanziano, sono quelle che principalmente che più si rifinanziano allo sportello, al bancomat della Banca Centrale Europea. Nel momento in cui la Banca Centrale Europea dovesse chiudere, non chiudere, ma comunque rendere meno agevoli i finanziamenti, come lo sono stati in quest'ultimo anno, è chiaro che qualche contraccolpo potrebbe farsi sentire, e questo si traduce sui bond greci in volatilità tanto maggiore, questo è banale, quanto è maggiore la scadenza residua dei bond. Per cui all'ascoltatore bisogna chiedere anche che tipo di titolo è, quando scadrà, se scade fra 6 mesi, se scade fra 20 anni. E qui concludo dicendo che nel giro degli analisti che abbiamo anche sentito con Plus, non si stava parlando di fallimento della Grecia, di mancato rimborso, ma si stava parlando, ragionando più che altro su una turbolenza che potrebbe far perdere di prezzo ai bond, insomma, ai prossimi mesi. Luca Pierazzi, per fortuna che c'è l'euro, che in qualche maniera argina da conseguenze più pesanti. Peraltro il deficit greco esplode al punto che ora contende l'Irlanda il primato del paese dell'area euro con il disavanzo pubblico più alto, dopodiché c'è il Portogallo, dopodiché chi c'è? Indovinate? Purtroppo la questione è proprio questa, cioè l'Italia è in seconda linea dopo questi paesi per disordine dei conti. Dal punto di vista del debito poi direi che siamo assolutamente in prima linea, non solo per questioni percentuali, cioè di quantità di debito rispetto al prodotto interno lordo, ma anche perché siamo un paese decisamente più pesante, più grosso, più importante, abbiamo altri numeri rispetto a quelli della Grecia. Per questo ritengo che comunque in Europa si faranno tutti gli sforzi che occorrono per aiutare la Grecia a uscire da questo momento, perché tra l'altro sono sforzi sostenibili. Quando parliamo della Grecia, del debito greco, del deficit greco, parliamo di numeri piccoli. Quindi se dobbiamo mettere mano al portafoglio per risolvere la questione della Grecia, non è una cosa drammatica. Ma risolvere il problema greco, quindi mettere mano in tasca per risolvere il problema greco, significa risolvere a catena i problemi seguenti, o comunque tamponare i problemi seguenti, evitare di dover mettere mano un giorno in maniera molto più dolorosa in tasca per Irlanda, piuttosto che più avanti per Portogallo, ma soprattutto per l'Italia. Meno male che l'euro c'è. Vorrei dire, perché altrimenti oggi vedremmo altri numeri sui nostri listini, sia sull'azionario ma soprattutto sull'obbligazionario, cominceremo a vedere dei segni pericolosi. Chi era sui mercati agli inizi degli anni 90, quando ci fu la svalutazione della lira, un momento drammatico, uno forse dei momenti più drammatici della nostra Repubblica, chi era sui mercati allora, insomma, si ricorda di aver visto il sangue scorrere sugli screen, insomma, sui titoli di Stato. Certo, intanto devo adesso riandare in pausa, sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, vedo la borsa che sta di nuovo risollevando la testa, vedo Parigi sulla parità, vedo Francoforte appena negativa, -0,17, Londra Londra -0,3, Milano -0,6, per cui si sta veramente cercando di accantonare abbastanza rapidamente tutto quello che è accaduto ieri e le preoccupazioni legate alle sorti finanziarie di Dubai, ma e comunque vedo che ancora l'incertezza non manca e vedremo soprattutto oggi cosa ci riserverà Wall Street, che in ogni caso contratterà solamente per metà giornata. Il ponte del Thanksgiving, quindi del ringraziamento, prosegue in questo modo negli Stati Uniti, anche se oggi sarà un test importante, ce ne sarà un altro che, nel quale io mi divertirei molto di più, il Black Friday, perché oggi sarà veramente la giornata dedicata ai consumi spregiudicati in America. Un tocco di risata, insomma, in questa giornata per il mercato un po' turbolenta. Eccoci ritrovati a Salva Danaio a monitorare un po' questa chiusura di settimana di borsa turbolenta, a giudicare da quello che è accaduto ieri. Paura sui mercati da un possibile effetto contagio per il potenziale, ma sarà probabilmente scongiurato, crack di Dubai World, questa holding pubblica dell'Emirato di Dubai, quello un po' più in difficoltà in sostanza, perché peraltro poggia tutta la sua attività economica su questo boom immobiliare che c'è stato negli ultimi anni, non ha petrolio a differenza dei suoi fratelli confinanti. Allora, sentiamo altre considerazioni sulla giornata di ieri. Abbiamo poi toccato anche l'altro focolaio di crisi europeo, che è quello della Grecia. Massimo dalla provincia di Novara, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ieri c'è stata questa notizia di un potenziale crack da 60 miliardi. Sì, tra l'altro UBS stamattina dice che saranno 80-90. Adesso cominceremo anche la gara delle cifre. In ogni caso è bello, bello potente, sì. Ecco, quindi la borsa è crollata di 150 e quindi come minimo c'è una reazione smisurata rispetto alla dimensione. E a Wall Street era tutto fermo, pensi un po' lei. E appunto, e poi le banche già avevano lasciato sul terreno nei giorni precedenti, dopo la notizia dei problemi tedeschi, un bel po' di capitalizzazione. Ora, ma perché tutto questo succede? C'è dietro una speculazione, quindi ritroveremo dei bilanci eccellenti delle banche di investimento, delle grandi banche commerciali, o peggio, ormai non ci fidiamo più di quello che ci raccontano gli amministratori delegati di queste grandi banche e quindi temiamo che abbiano altri cadaveri nell'armadio. È una congiuntura molto particolare, Massimo, sono d'accordo con lei. Massimo parla di una reazione spropositata rispetto all'entità della notizia a fronte di un crack possibile, ammettendo anche che sia di 80 miliardi. In Europa solo ne abbiamo mandati in fumo 152 ieri, e per fortuna che Wall Street non era aperta, perché però vedremo oggi quanto sarà in grado di fare il mercato americano. Ha ragione l'ascoltatore Pierazzi. Ci aspettavamo anche uno storno, che però comunque si è limitata alla giornata di ieri, perché già oggi la borsa sembra orientata al recupero, per cui anche tutti quelli che pensano che dopo il rally di primavera ci sono stati un paio di stop autunnali, però niente di significativo, visto che da marzo ad oggi le borse sono cresciute tanto, ci aspettiamo un rally all'ingiù abbastanza deciso, in modo tale che qualche investitore che ha perso l'occasione d'aprile si rimetta sul mercato azionario. Quindi sono anche delle scuse ogni tanto che qualcuno si prende? Ma non credo prima della fine dell'anno, mi sembra che ci sia un interesse convergente a livello planetario di far sì che da qui alla fine dell'anno non succedano disastri, che le borse non crollino, che i titoli corporate non abbiano discese forti e via dicendo. All'inizio del nuovo anno qualche nodo potrebbe venire al pettine. Non mi sembra che questa vicenda di Dubai sia tanto importante per la dimensione della vicenda stessa, che comunque non è trascurabile, quanto perché segnala alcune realtà. Queste casseforti arabe, che erano ritenute solidissime, che erano intervenute a destra e manca per il mondo comprandosi pezzi di banche in difficoltà, che erano intervenute immettendo liquidità in società in difficoltà, che hanno ormai un portafoglio di partecipazioni in tutto il mondo, nelle società che tutti conoscono, cominciano a accusare qualche limite nella propria capacità di rifinanziare il mondo e di rifinanziare la finanza, di rifinanziare la ripresa. Oltre a questo c'è il tema che l'ascoltatore citava prima, di qualche difficoltà del sistema bancario europeo, non più sul fronte dei titoli sintetici, ma sul fronte dei crediti nei confronti delle imprese, che verrà forse più evidentemente alla ribalta nel 2010. E io continuo a pensare che poi ci siano altre aree e altri episodi in cui torneremo a vedere questo fenomeno, che è abbastanza negativo, di protagonisti, grandi protagonisti della finanza internazionale che tengono il cerino in mano fino all'ultimo momento, smentendo che il cerino si sta consumando, per poi mollarlo prima di bruciarsi e dire: ah, fermi tutti, non pago, datemi sei mesi di tempo, e come è successo con Dubai. Devo dire che per esempio il crack argentino di qualche anno fa insegna anche in questo senso, poi anche lì c'è stato un precedente importante, quasi come se qualcuno, insomma, non pagando, non ripagando, si sentisse autorizzato per rilasciare questa eredità anche ad altre situazioni simili del futuro. Comunque non torniamo indietro fin là, ci mancano pochi minuti. Maximilian, ci chiedevamo prima l'asta dei BTP di questa mattina al Tesoro. Ti dico i rendimenti così magari mi fai tu una valutazione. Calo dello 0,03% al 4,01%. Sì, diciamo perché la guardiamo soprattutto, esatto. Perché era un po' attesa questa asta, perché ovviamente tutti i problemi, turbulenze sulla Grecia prima e su Dubai poi, c'è il pericolo chiaramente che qualcosa si possa anche vedere sui titoli italiani. C'era molta attesa perché questa è un'asta decennale, del BTP decennale, che arrivava proprio in un periodo in cui, in un momento in cui, come piace dire agli analisti, l'avversione al rischio è abbastanza elevata. Cosa vuol dire questo? Che si rischia meno, si può rischiare meno sul mercato e si va a privilegiare degli investimenti che hanno appunto un minor tasso di rischio. E infatti ieri abbiamo visto acquisti sfrenati sul Bund tedesco, che è l'investimento nel campo obbligazionario, almeno in Europa, meno rischioso possibile. E quindi qualcuno poteva abbandonare i periferici, l'Italia in particolare, la Grecia ovviamente, e l'ha fatto, perché la Grecia l'hanno abbandonata. L'Italia un po' meno, si è difesa un pochino meglio. Quest'asta, io non vorrei rubare il mestiere a Segre, magari, che è un analista è in grado in maniera migliore di me di commentare quest'asta, ma mi sembra a occhio che non ci siano stati problemi particolari a piazzare questi 2,6 miliardi di euro, perché vedo che l'importo domandato proprio dai dati dell'Assium è più di 4 miliardi, per cui c'è stata una certa richiesta. Giro, c'è subito stato un abbassamento, guarda, dei rendimenti. Un minuto. Sì. C'è stato un abbassamento dei rendimenti, però mi sembra abbastanza fisiologico, insomma, non credo sia stato Segre, niente. La lascio concludere dandole anche l'opportunità di dirci un po' cosa prevedete per i prossimi giorni. Questa è stata una settimana un po' strana perché Wall Street mancava l'appello, però da lunedì prossimo si ritorna, come dire, alla piena negoziazione su tutti i mercati. Allora, ci aspettavamo, eravamo preoccupati per quest'asta, l'asta è andata bene, abbiamo il mercato dei titoli di Stato più liquido del mondo, stanno tornando a comprare in maniera difensiva, quindi titoli di Stato, in maniera avversa evidentemente comprano BTP e vendono Grecia. L'Islanda ha rimandato a marzo, è uscita adesso la notizia, l'accesso all'Unione Europea, e quindi direi i problemi rimangono sul tappeto, però noi continuiamo a stare sulla parte di investment grade, la parte più difensiva della curva entro il 5 anni, perché le turbulenze purtroppo potrebbero minare i rendimenti sulla parte i rischi sono dietro l'angolo ancora. Claudia Segre, grazie a Luca Pierazzi, Maximilian Cellino per essere stati con noi. Vi auguro un buon fine settimana a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Salvadanaio torna lunedì, arrivederci. Salvadanaio.